sono fiumi fermi e noi nuotiamo per dimenticare i nostri nomi e farci annullare nei vetri di Lanciano. Qui non passa la corriera, qui non è ancora primavera, ed è amaro non saper restare qui per correggerci la mano. Scalzi e sfioriamo per non trasalire sui solai stesi ad aspettare che passino i deltaplani.